e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi, benvenuti e benvenute anche a Deborah. Eccoci, ciao. Eccoci, anche a te, ciao, buongiorno. Cosa c'è di meglio di chiudere la settimana con Brava. Una bella notizia? Guarda, te la do? Sì, perché già qua, siccome il maltempo imperverserà nel weekend, l'umore mio è già grigio, ti prego, dammi una buona notizia. Allora, la buona notizia ce l'ha scritta Roberta. Ottimo. Ci ha mandato un WhatsApp. Un'amica. Roberta si era iscritta al nostro progetto Meno Pancia Più Salute. Brava. 4 settimane con i consigli del dottor Speciani e della sua equipe. Bene, ci ha scritto che ha perso 2 chili e la pancia, come diceva una vecchia pubblicità, non c'è più. Bene, scomparsa. Che brava lei, che bravo il dottor Speciani e che bravi noi anche naturalmente a fare queste iniziative. Diciamolo, gongoliamoci un po'. Allora, brava Roberta. Io, come tu sai, le buone notizie le devo trovare nel mondo finanziario e faccio un po' più fatica di te. Detto questo, invece, l'abbiamo trovata. Purtroppo non riguarda noi, ma potrebbe anche riguardare noi. Allora, intanto salutiamo tutti gli amici che molto spesso ci mandano dei messaggi dal Nord Europa. Ci sono tanti ascoltatori che ci seguono dal Regno Unito, dalla Svezia. Speriamo che ce ne sia qualcuno che ci segue anche dalla Danimarca, perché da lì arrivano buone notizie. Tu pensa che ci sono mutuatari che a fine mese, anziché pagare gli interessi sul debito, ricevono un accredito da parte della banca. Dai. Non perché le banche siano buone, ma perché i tassi di interesse sui mutui a tasso variabile sono negativi e di conseguenza la banca dice: siccome tu non mi devi niente, sono io che ti devo ridare qualcosa. Allora, in Italia non succede, ma le associazioni dei consumatori stanno già cominciando a dare battaglia, perché anche Banca d'Italia ha detto che così dovrebbe essere. Ne parliamo nella seconda parte della parte di denari di Cuore Denari verso le 11. Va bene? Ci sto. A tra poco. Tutte le mattine scombiniamo sempre un po' il lavoro di Carmelo Lauricella con la nostra rassegna stampa. Detto questo, stamattina ripartiamo con la borsa, che è negativa in tutta Europa. Era partita molto male anche Piazza Affari, che però adesso riduce la perdita a 0,5 punto. Sta finendo una settimana che è stata un pochino nervosa per i mercati finanziari. Anche l'euro è molto vivace. Sul dollaro stamattina aveva riagganciato 1,14. I migliori titoli di Piazza Affari: Banca Mediolanum, che ieri ha rassegnato la trimestrale in rialzo di 1 punto, bene Moncler più 0,8, Atlantia più 0,8, Azimut più 0,5, i negativi, Pop Emilia Romagna meno 2,5 punti, CNH Industrial meno 2, Ubibanca meno 1,56%. Fra poco inizia la conferenza stampa della società che gestisce il Fondo Atlante, il Fondo di Stabilizzazione Bancaria. C'è un'altra puntata nella lunga vicenda Canone e Rai. Dopo averne bocciato alcuni passaggi, i giudici del Consiglio di Stato hanno dato l'ok al provvedimento che riforma il pagamento del canone, che quindi ci arriverà con la bolletta della luce a partire dal mese di luglio. Fate attenzione. Fra i punti che sono stati chiariti: i coniugi e le coppie di fatto hanno gli stessi identici diritti, quindi dovranno pagare un solo canone, risultando come appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, purché queste persone convivano ed abbiano la loro dimora abituale nello stesso comune. Voi, se volete saperne qualcosa in più, trovate una pagina di domande e risposte più frequenti sul canone Rai fra i contenuti extra di Cuore e Denari nella nostra pagina, che potete raggiungere dal sito di Radio 24. Fondazione Banca Etica ha partecipato ieri per la prima volta all'assemblea degli azionisti di Finmeccanica, che come sapete è il colosso mondiale, ma è italiano naturalmente, di armamenti. Allora, detto così, può sembrare una notizia che può interessare poco noi tutti, se non fosse che la fondazione come ha fatto a partecipare all'assemblea dei soci di Finmeccanica? Comprando, pensate, solamente 3 azioni della società, e lo ha fatto appositamente per intervenire come azionista critico su proposta di Rete Disarmo, per criticare il progresso sbilanciamento del gruppo Finmeccanica, partecipato al 30% dal Ministero del Tesoro, verso la produzione militare. Questa partecipazione ha voluto essere un auspicio per avere invece, per così suggerire, un maggiore investimento nella produzione civile. Questo tanto per dire che anche se siamo magari a volte piccoli soci di una grande società, in realtà possiamo dire la nostra. Infine parliamo di banche, tanto per cambiare, perché io sto facendo questo countdown, Nicoletta. Allora, stasera alle 18 si riunisce sempre più là il Consiglio dei Ministri per approvare il provvedimento con gli indennizi ai risparmiatori del salvabanche. Io mi fermo qui perché non voglio dire altro. Io vorrei fare la puntata lunedì con un provvedimento bello pronto per dare buone notizie agli ascoltatori. Quindi Renzi, mi raccomando, non slittiamo un'altra volta l'appuntamento. Stasera lo aspettiamo, va bene? Ma che sei scemo? Io? Tu? Ascolta. Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare? rovesciare la tua vita di quasi 10 anni. Mette a rischio la fertilità e può essere... Parliamo di fumo. In questi giorni ha fatto discutere e acceso molte polemiche la scelta del British American Tobacco di mettere sul mercato un numero limitato di pacchetti con un richiamo al Palio di Siena. Sul fronte della confezione, tra l'altro, è raffigurato un suonatore di chiarina in costume. Sembra che non sia neanche il Palio di Siena, ma quello di Asti. Insomma, le polemiche ci sono e hanno ragione, ma noi lasciamo da parte le polemiche per parlare invece di un dato che mette d'accordo tutti, ed è una relazione che noi dobbiamo conoscere e che è quella che lega il fumo all'artrite reumatoide, una malattia infiammatoria cronica su base autoimmune che colpisce le articolazioni, in particolare quelle di mani e piedi. Questo dato è molto interessante. Abbiamo raccolto un'intervista al professor Carlo Selmi, responsabile di reumatologia e immunologia clinica all'Istituto Humanitas, docente all'Università di Milano. Se siete fumatori, andate ad ascoltarla. Dall'Inghilterra invece arriva la proposta della Royal Society of Public Health, un'organizzazione indipendente impegnata nel miglioramento della salute pubblica e del benessere, di riportare sulle etichette degli alimenti anche l'attività fisica necessaria per bruciare le calorie, non solamente gli ingredienti. Ad esempio, se mangiate un bel trancio di pizza, sappiate che arriva a 500 calorie circa, non si usano più questo termine, ma insomma aiuta a considerare un po' quanto dovremmo fare per smaltirla, per bruciarla. Ci vorrà infatti 1 ora e mezza di passeggiata veloce o 43 minuti di corsa per consumare tutto quello che la fetta di pizza ci regala. Se poi ci aggiungete una lattina di bibita gasata, dovrete aggiungere altri 13 minuti di corsa. In attesa di queste etichette intelligenti, potete però seguire i consigli che trovate sulle nostre pagine del dottor Massimo Gualerzi, cardiologo esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, che ci suggerisce una eat parade degli sport brucia grassi. E infine parliamo di matrimonio, cara Debora. Allora, il matrimonio protegge la salute degli anziani. Solo degli uomini, però. Ad affermarlo è uno studio dell'Università di Padova, che ha considerato i dati relativi a quasi 2000 anziani e, misurando il grado di fragilità, una condizione che si misura attraverso alcuni parametri fisici di cui abbiamo parlato tante volte: velocità della camminata, la forza della presa della mano, l'autonomia naturalmente nelle attività quotidiane, e mettendolo in relazione con lo stato civile, ha proprio dimostrato che i maschi over 65 sposati sono, rispetto ai coetanei celibi o vedovi, meno a rischio rispetto a malattie croniche, disabilità e morte. Invece, attenzione, sorprendente, le donne della stessa età che hanno perso il consorte appaiono di contro più forti delle coetanee che hanno ancora un marito accanto. Insomma, sembra che il matrimonio giovi agli uomini e che la vedovanza non incida negativamente sulla salute delle donne. E noi oggi, come ogni ultimo venerdì del mese, dedichiamo il nostro approfondimento alla salute maschile. Oggi due temi caldi: calcoli, gli uomini sono più a rischio indipendentemente dallo stato civile. Se bevete poco, mangiate salato, avete una dieta ricca di proteine animali, restate e fatelo, soprattutto se di calcoli avete già sofferto. Stiamo entrando in una stagione un po' a rischio e cerchiamo di evitarci problemi evitabili. Poi parleremo di doping. Il caso del culturista ci invita naturalmente ancora una volta a sottolineare i rischi dell'uso di sostanze medicinali, naturali e sintetiche, finalizzato al miglioramento delle prestazioni fisiche in ambito sportivo. Attenzione, si possono correre seri rischi. Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Se intanto volete iniziare a prenotare i vostri interventi, il nostro numero verde è a disposizione. Ho calcolato col pallottoliere tutte le ansie che in un giorno... Tra poco dobbiamo dare la linea al traffico, ma vi voglio già anticipare il tema che sarà oggetto del nostro primo approfondimento. In Italia abbiamo questo fenomeno: 13 miliardi di bollette sono lasciate insolute, valgono circa 56 miliardi di euro, ci sono oltre 40 miliardi di rate scadute in circolazione, dati pesantissimi dovuti non certo a sviste o dimenticanze, ma alle grandi difficoltà che molte famiglie italiane hanno dovuto sopportare in questi anni di crisi. C'è anche da ammettere che questi numeri rappresentano un enorme problema per le aziende interessate che prestano servizi per le quali non vengono poi regolarmente pagate, le utilities, banche, società finanziarie, operatori telefonici. Come sapete, quando poi gli insoluti diventano una montagna, scatta la procedura del recupero crediti, che all'inizio è morbida all'insegna del dialogo e della restituzione graduale ed indolore dei debiti, fino poi alle soluzioni estreme di pignoramenti dei beni delle famiglie gravemente morose. Allora, questo tema è stato al centro ieri di un grosso convegno a Roma. Allo stesso tavolo si sono sedute le società e le aziende erogatrici di servizi e le associazioni dei consumatori, ed è stato presentato nell'occasione il vademecum dell'autorità garante dei dati personali. Il vademecum si chiama Privacy e recupero crediti, le regole per il corretto trattamento dei dati personali, perché molto spesso chi va a fare recupero crediti lo fa con qualche atteggiamento che è al limite del molesto, per cui bisogna regolamentare anche quella modalità. Ne parliamo di tutto questo, lo saluto prima del traffico, con Antonio Persici, presidente di OIC, Osservatorio Imprese e Consumatori, che ieri ha organizzato il convegno. Persici, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Le chiedo di ascoltare il traffico con noi e poi cominciamo la bella chiacchierata, tra poco. Cuore e denari. Allora, questa è una canzone allegra, ma in realtà il fenomeno del quale parliamo questa mattina è tutt'altro che allegro. Vi chiedo se vi siete mai trovati in ritardo con il pagamento delle bollette, cos'è successo, siete stati contattati da una società di recupero crediti, come avete gestito anche questa situazione. Antonio Persici, presidente di OIC, Osservatorio Imprese e Consumatori, all'indomani del convegno di Roma, intanto ci fa un veloce biglietto da visita della vostra attività. Chi siete e che cosa fate? Allora, noi siamo Osservatorio Imprese e Consumatori, un luogo di incontro tra due parti che sono solitamente contrapposte, quella del debitore e quella del creditore, ovviamente rappresentate dalle associazioni di categoria, dove noi cerchiamo quella che è la via comune, perché oggi noi siamo abituati in questo paese in un clima di lite continua, tutti litigano con tutti. Noi pensiamo che oggi, se non andiamo in una strada, non troviamo quello che è il bene comune e che quindi risolve il problema a tutti, è l'unico modo per andare avanti, non se ne esce assolutamente. Facciamo leggi, regole, cose continuamente, ma non risolvono. La legge che riguarda il regolamento, riguarda il recupero crediti, è stato emanato da Vittorio Emanuele III nel 1931, è all'interno del testo unico leggi pubblica sicurezza. E ieri noi eravamo in un luogo vicino alle orecchie di coloro che hanno passato quasi un secolo praticamente, ancora voi gestite, sì, l'attività di recupero crediti con una misura legislativa che appartiene alla fase addirittura prerepubblicana. Sì, esatto. Noi ieri dicevo appunto nel convegno, spero di non essere ancora qui fra pochissimi anni, ormai ne sono passati quasi 90, a festeggiare il centenario del vetusto articolo 115 del TULPS, che è quello, certo, che regola l'attività. Quindi primo messaggio che avete voluto diramare da questo convegno, intanto aggiorniamo la legislazione. Perché è necessario, Presidente? Noi parliamo molto spesso di famiglie che sono in ritardo e morose con i mutui, e peraltro fenomeno che ha portato anche a questa montagna di sofferenze in pancia alle banche, con tutte le conseguenze che sappiamo e che raccontiamo ogni giorno. Ma il tema delle bollette saltate e non pagate è altrettanto e forse anche più drammatico dalle cifre che abbiamo dato all'inizio. Voi avete un osservatorio sui settori su cui gli arretrati sono più pesanti? Sì, allora, il ritardo dei pagamenti riguarda tutti i settori, parliamo quindi del mondo finanziario, ma anche quello delle utilities, e quindi luce, gas, telefono e idrico. La crisi ha ulteriormente aggravato il tema di rispetto delle scadenze di pagamento, e del resto anche lo stesso Stato. Noi abbiamo fatto un convegno anche poco tempo fa, sempre nei stessi luoghi istituzionali, dove abbiamo visto il guaio combinato dal ritardo del pagamento della pubblica amministrazione, cioè centinaia, migliaia di aziende, dove ci sono anche i consumatori, perché poi i lavoratori sono anche consumatori, e che hanno perso il posto di lavoro. È quindi un problema diffuso e non relativo ai soliti mutui, ma impatta direttamente sulla vita quotidiana dei consumatori. Tanto che deve intervenire adesso l'autorità garante dei dati personali, che ha stilato questo vademecum che avete presentato proprio ieri, perché, dice l'autority della privacy, l'attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore. Persici, cosa è avvenuto fino a questo momento? Perché questo documento? Allora, come diceva ieri De Paoli, che è il vice segretario generale dell'autorità garante, sì. Dell'autorità garante. Ieri il Vademecum non è stato altro che una rivisitazione di quello che era stato fatto nel 2005, quando c'era l'altro Pizzetti, mi sembra, che effettivamente ha regolato abbastanza bene per quanto riguarda la privacy, perché qui non è possiamo pensare solo alla privacy, i problemi sono tanti, e ha regolato il settore. Ieri non è stato fatto altro che un rilancio, quindi questo vale metodo, ma era, diciamo, erano tutti questioni già trattate. Però in ogni caso, insomma, c'è stata una presa di posizione di nuovo rafforzata sul fatto che spesso esistono prassi a volte molto invasive da parte di chi fa attività di recupero crediti, visite a domicilio, sul posto di lavoro, vengono effettuate reiterate sollecitazioni al telefono fisso, al cellulare, telefonate preregistrate, invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta recupero crediti, e quindi tutti i vicini sanno la lettera che ti arriva da quale emittente. Insomma, questo lo dice il documento del garante, Presidente, per cui l'ho voluto riportare. So che voi avete grande sensibilità su questo argomento, per carità, non ma è che volevo... Sì, noi siamo assolutamente d'accordo con quello che ha detto ieri il garante, queste cose però ha anche detto che ormai sono pochissime, quindi mentre nei commissariati e nelle stazioni dei carabinieri ci sono tantissime denunce per quanto riguarda sono stato maltrattato al telefono di qua eccetera, però dal punto di vista delle cose che arrivano al garante su milioni e milioni di telefonate che vengono fatte tutti gli anni, praticamente lo stesso garante diceva ieri che sono poche centinaia, quindi se sono poche centinaia su milioni oserei dire che il problema ancora c'è. Noi vorremmo che scomparissero anche quelle, Presidente. Senta, andiamo invece alla ciccia e alla risoluzione pacifica di queste controversie. È poca possibilmente, perché sennò chiamiamo Speciani e ci riduce anche il giro vita. Allora, quali sono i passi da fare se si ha la consapevolezza che da qui a poco avremo una difficoltà finanziaria, ci troviamo già in condizioni di difficoltà finanziaria e non riusciremo a rispettare qualche pagamento? Prima che bussi alla nostra porta o ci telefoni in maniera molesta o meno il funzionario che fa giustamente attività di recupero crediti, che cosa possiamo fare per evitare appunto che si arrivi ad un contenzioso? Persici. Ma guardi, allora la soluzione sta nella riforma che noi abbiamo proposto e che ieri è stata ben accolta da autorità, parlamentari eccetera, se vuole poi gliene parlo, però per il momento, dato lo status quo, le cose come stanno oggi, il miglior consiglio che possiamo dare come osservatore del prezzo del consumatore è quello di indicare al consumatore che riceve una fattura per la quale potrebbe avere problemi di pagamento, di entrare subito in contatto con la società che richiede l'importo, possibilmente richiedere per iscritto una rateizzazione oppure una deduzione nei tempi di pagamento. Se la società non lo dovesse consentire, il consumatore potrà chiedere il supporto del nostro osservatorio oppure rivolgersi a un'associazione di consumatori, molte appartengono ormai anche al nostro osservatorio, quindi può rivolgersi a una qualsiasi associazione di consumatori. Noi abbiamo anche il progetto di istituire comunque un fondo di solidarietà. Esatto, infatti, assolutamente sì. Andiamo a che cosa potrebbe servire, Presidente Persici? Allora, guardi, oggi noi siamo di fronte veramente a un dramma che sicuramente non si risolverà nei prossimi mesi, chissà se nei prossimi anni. Allora dobbiamo portare avanti un ammortizzatore sociale che risolva questo problema. Ieri ne abbiamo parlato. Abbiamo visto che l'argomento è stato accolto molto bene. Chi lo dovrebbe finanziare, Persici? Allora, dice chi mette i soldi, il solito problema è sempre quello. Certo. Allora, il fondo di solidarietà nell'interesse, parliamo di bollette, perché il discorso è molto articolato. Abbiamo 40 secondi, Presidente, se ce la fa. 40 secondi nelle bollette. Allora, con pochi centesimi che non rovinano la vita né al consumatore e un po' di più al gestore, centesimi che poi devono essere... ovviamente defiscalizzati, si crea un fondo di milioni e milioni di euro che può servire benissimo a finanziare il costo del denaro dei piani di rientro di uno che magari ha 3.000 euro di arretrato e può pagare 100 euro. Certo. Benissimo, allora quando sarete pronti con il fondo di solidarietà, Presidente Persici, ci saremo ben lieti di ospitarvi di nuovo, perché se si tratta di tutelare le famiglie con qualche arretrato perché non ce la fanno, perché la crisi continua a mordere, non siamo ben contenti appunto di parlare di questo strumento di aiuto. Nicoletta, direi di dare la linea ai nostri amici del giornale radio. Un'ottima idea, a tra poco. A tra poco. tutti i giorni dalle 14 alle 15.30 il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. La passione continua anche la domenica dalle 17 alle 19. Sono Giovanni Capuano e vi aspetto. Tutti convocati weekend, facciamo il primo processo a quello che è successo. Cuore e denari. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Aiuto, aiuto. Eccoci con il nostro, uno dei nostri grandi cavalli di battaglia, Nicoletta. Ormai la sappiamo a memoria. Allora, ti leggo questa... La prossima te la canto io. Ti leggo questa mail che ci è arrivata ieri. Ho appena concluso il pagamento di un mutuo a tasso variabile, durata 15 anni. Ci racconta poi questo ascoltatore di che tipo di mutuo si trattasse. Tasso contrattuale pari al 5,59%. Indicizzazione Euribor a un mese più lo spread applicato dalla banca all'1,20%. Nei documenti con i dettagli della rata ricevuti dalla banca trovo data, numero della rata, quota capitale, quota interessi, spese in casso, importo rata. Nessuna precisazione in merito a come viene composto il tasso di interesse e quindi ai valori di Euribor adottati. Come suggerite di procedere, se ne vale la pena e se lo ritenete possibile per verificare se la banca ha agito correttamente, quindi ha calcolato correttamente la rata? Allora, perché ci ha scritto Paolo? Perché ha ascoltato, bravo, la trasmissione di ieri, quando abbiamo preannunciato uno dei temi che avremmo affrontato oggi. Partiamo da una piccolissima cronistoria perché la devo fare. Molti di coloro che sono all'ascolto stanno probabilmente, come me, rimborsando un mutuo a tasso variabile. Ammettiamo che lo stiano facendo da una decina d'anni. Sanno bene cos'è successo alle proprie rate, se hanno resistito e non lo hanno surrogato, in questi ultimi 10 anni. Le rate, lo ricorderete, hanno preso il volo fra il 2008 e il 2009, quando è esplosa la crisi dei tassi interbancari. Queste stesse persone adesso invece stanno godendosi delle rate molto basse, che più basse non si può grazie alla progressiva riduzione dei tassi di interesse di mercato. Pensate che l'Euribor, che è il tasso interbancario più importante a cui si agganciano i mutui a tasso variabile, è negativo da moltissimi mesi. Eppure qualche associazione dei consumatori ha il sospetto che non tutti i mutuatari abbiano avuto la discesa della rata che si sarebbero dovuti aspettare. Ma non solo le associazioni dei consumatori hanno il sospetto, ce l'ha anche la Banca d'Italia, che sull'argomento è intervenuta di recente. Così i consumatori hanno cominciato a suggerire: andate un po' a fare una chiacchierata con la banca per verificare se la rata è scesa quanto doveva. Allora, ci rifà un punto della situazione su quelle che sono a questo punto le possibili iniziative da intraprendere. L'avvocato Emilio Graziuso, Confconsumatori Brindisi. Buongiorno intanto, avvocato. No, l'unica cosa, non sento bene. Lei non sente bene, anche noi la sentiamo in maniera pessima, per cui stamattina verrà fuori veramente una trasmissione esplosiva. Però lei l'argomento lo conosce, avvocato Graziuso, le lascio direttamente la parola. Allora, che tipo di battaglia avete intrapreso come Confconsumatori alla vostra falpa? Anche quella di altro consumo che più o meno ha la stessa modalità. Allora, noi innanzitutto siamo partiti come discorso, che è un dato di fatto, quindi non è uno spot da parte nostra come associazioni, ma siamo partiti da un dato di fatto, che è il provvedimento della Banca d'Italia, con la quale è stato accertato che alcune banche, nonostante ormai dal febbraio 2015 ci sono stati dei tassi, degli aspetti, dei profili che compongono il tasso di interesse negativi, come lei faceva cenno poc'anzi, nonostante ciò hanno continuato ad applicare egualmente quel tasso, in alcuni casi parametrandolo allo zero, oppure prevedendo proprio nel contratto un tasso minimo in negativo. E che cosa ha comportato? Che nonostante che ci sia stato un crollo verticale di questa tipologia di voce che compone il tasso di interesse, e quindi si traduce poi nell'importo che il singolo consumatore paga nelle rate di mutuo, la rata è rimasta invariata, il che non è concepibile, perché matematicamente non è possibile una cosa del genere, salvo che non sia estremamente previsto nel contratto. Ora, a questo punto la Banca d'Italia ha stabilito chiaramente nell'ambito del suo provvedimento che gli istituti di credito che hanno applicato in questo modo, che non hanno anzi rispettato questo indice negativo del tasso e quindi hanno percepito somme in più da parte dei consumatori, devono restituire le somme che hanno percepito. Con che modalità, avvocato Grazioso, cosa suggerite di fare ai consumatori? Perché adesso non vorrei che si scatenasse, come dire, la corsa allo sportello per riavere indietro anche magari qualche cosa che può anche non essere dovuto a tutti, no? Quindi a chi suggerisce di muoversi ad andare a fare questa richiesta specifica nei confronti della banca? Che tipo di controllo preventivo forse è meglio che facciano i consumatori prima di andare inutilmente allo sportello bancario? Allora, la prima cosa da fare è controllare il contratto, che insomma è stato espressamente pattuito il testo, diciamo così, minimo di un eventuale discorso di calo di lei faceva prima il floor, si chiama, no? C'è proprio un pavimento al di sotto del quale la banca dice non te lo faccio andare il tasso. Se i contratti prevedono questo è un discorso, se invece il contratto non prevedeva un discorso del genere, comunque la banca ha applicato un tasso, diciamo così, un tetto minimo che o pavimento, come aveva detto giustamente lei, minimo, che pari ad esempio allo zero, i consumatori possono a questo punto recarsi in banca, farsi fare un prospetto di quanto hanno corrisposto e quanto invece avrebbero dovuto corrispondere in virtù del calo, diciamo così, di questi indici, e quindi chiedere poi la restituzione delle somme indebitamente corrisposte. La nostra speranza come associazione, perché noi riteniamo che la battaglia dei consumatori sia anche una battaglia per regolamentare il mercato in modo efficiente e trasparente, la nostra speranza è quella che in questo caso le banche, dato il provvedimento della Banca d'Italia, restituiscano in automatico nei casi che vengano riscontrati le somme indebitamente percepite dal consumatore. Guardi, questo film me lo voglio proprio vedere, un riaccredito automatico di somme percepite in maniera non corretta da parte delle banche. Però insomma in Danimarca succede, perché non dovrebbe succedere anche da noi, una buona prassi che insomma sarebbe solamente plausibile. La speranza è sempre l'ultima a morire, si dice avvocato Grazioso. Ma no, voi avete già fatto partire qualche modulo da parte di qualche vostro associato alla propria banca? Allo stato attuale stiamo raccogliendo appunto la documentazione in modo tale da verificare se ci sono stati gli estremi. Verificare gli estremi e poi capire un attimo se c'è stato un utilizzo di questa tipologia di applicazione o di non applicazione diciamo così, della voce negativa appunto che compone la rata, se è stato generalizzato oppure concentrato soltanto ad alcune banche. Esatto. Allora, avvocato Grazioso, noi purtroppo, non sentendola bene qualitativamente, adesso la salutiamo, rinviando naturalmente questo argomento ad un'altra puntata. L'ABI non ha preso posizione su questa vicenda, mi pare, almeno ieri non ho trovato nulla, spero di non fare delle gaffe, l'Associazione delle Banche Italiane, per cui sarà probabilmente auspicabile che anche loro dicano qualcosa su questa faccenda, proprio per evitare anche che si scateni la corsa, come dicevo prima, agli sportelli, ad andare a chiedere qualcosa che magari non è dovuto a tutti. Grazie all'avvocato Grazioso di Confconsumatori. Segnalo anche che su Altro Consumo c'è il modulo per richiedere il rimborso, loro sono già andati avanti addirittura predisponendo modulistica idonea per questa richiesta. Direi, Nicoletta, che possiamo cominciare la nostra bella rubrica dell'ultimo venerdì del mese. 3 per 5, 25, 6 per 3, 33, 2 per 8, 48. Allora, Deborah, 9, noi continuiamo a fare calcoli. Ah, bene. E puntiamo sulla prevenzione. Per evitare i calcoli contiamo proprio sullo stile di vita, su alcune correzioni che possiamo fare, perché abbiamo deciso di trattare il tema dei calcoli, perché è un problema molto diffuso che riveste un interesse particolare per la popolazione maschile di tutte le età. Quindi se volete intervenire chiamateci, e chiamateci in modo particolare se bevete poco, mangiate salato, fate una dieta molto ricca di proteine animali, se siete sportivi, se fate uso di integratori salini. Allora restate con noi anche se avete già avuto una colica, ma restate anche perché vi diremo come evitare in futuro di fare i conti con una recidiva, che può essere abbastanza frequente. In studio, naturalmente, come ogni ultimo venerdì del mese, torna a trovarci Andrea Salogna, urologo andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano e responsabile scientifico del progetto Salute Uomo di Cuore Denari. Ciao Andrea, bentornato e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie di questa bella accoglienza. Intanto vi invito subito dopo la puntata ad andare a leggere l'editoriale di Andrea Salogna, Dei calcoli e della fantasia. Oggi si intitola così: a buon giudizio di chi leggerà, se è meglio parlare di calcoli o sia meglio invece parlare di fantasia. Allora, Andrea, iniziamo, parliamo di calcoli, ma tratteggiamo prima il profilo, il nostro profilo dell'uomo che potrebbe, no, avere potrebbe a che averne, fare sì, con questo sono... che si dice che sia un provochi un dolore terribile. Gli uomini dicono ancora peggiore delle doglie della gravidanza. Io mi chiedo perché, come possono dirlo loro, che non, però solitamente lo diranno anche a te in ambulatorio. No, è assolutamente vero. È peggio di partorire. Ma signora, lei è un uomo, come fa a saperlo? Hai perfettamente ragione. Io il primo incontro con la calcolosi e le coliche l'ho avuto col mio papà, mi ricordo perfettamente, tantissimi anni fa, perché purtroppo non sono più un bambino neppure io, e il mio babbo corse ad una guardia medica, eravamo in un posto meraviglioso, in un'isola meravigliosa italiana. Detto questo, ha un po' di mal di pancia, era una colica renale terribile e i dolori sono effettivamente sovrapponibili a quelli delle doglie o quantomeno paragonati, benché non ci sia ovviamente possibilità certo. di un raffronto così concreto, ma i dolori sono proprio quelli. Ve la passiamo. Sì, sono proprio tipici non esclusivamente del sesso maschile, ma sono tendenzialmente più frequenti nel sesso maschile, tendenzialmente esiste una predisposizione al formare calcoli, non proprio una eredodistribuzione, cioè non c'è una familiarità, ma è molto frequente che all'interno dello stesso gruppo familiare gli uomini possano lamentare la formazione di calcoli. Ce ne sono di vari tipi, non parliamo sempre dello stesso tipo di calcolo, parliamo di calcoli perché non vogliamo essere monotoni, non siamo bella varietà lì, anche infatti ovvio. La fantasia anche qui ha il suo certo grado di responsabilità e di buon posto. In realtà ci sono calcoli fatti di calcio, calcoli fatti di una cosa che si chiama struvite, che è un termine bruttissimo per dire lì dentro c'è di tutto e in questo tutto ci sono anche tanti germi, banalmente. Sì. Ci sono i calcoli di acido urico, che sono tipicamente di quelle persone che soffrono di iperuricemia, cioè di un eccesso di acido urico nel sangue che si porta poi a livello urinario e che dà luogo a queste concrezioni, che sono non altro, sono delle palline fatte di una prima molecola di acido urico che poi con tutte le sue amiche va a conglomerarsi, questo è il termine corretto, formando dei calcoli. Che sono delle pietroline, sono dei delle sassolini, pietroline guarda quante di per sé anche sassolini. Stupidi, se vogliamo, dimensionalmente. Talvolta sono calcoli di 3 mm che danno dei dolori importantissimi. Perché? Perché l'apparato urinario è fatto da un rene, da un tubicino che si chiama uretere, che dal rene porta le urine fino alla vescica, e se solo mai quei calcoli, quei sassolini stupidi, piccoli o grandi che siano, si dovessero incanalare lungo l'uretere, hai voglia, perché la pipì spinge verso il basso e lui ostruisce, certo. L'uretere si dilata, il rene si dilata nel tentativo di spingere, hai voglia e dolore. Mi viene già male anche a Carmelo, vero? Però che è così, in regia è così. Però non mi hai detto, non mi hai fatto l'identikit del nostro uomo. L'uomo, io ci terrei molto. Non c'è un'età predisponente, purtroppo ci sono calcoli fin da ragazzini e fino alla più tarda senescenza. È un uomo generalmente che beve poco, che ha una predisposizione anatomica, e talvolta la predisposizione anatomica è lungo l'asse escretore, reno, retere, vescica, un punto di ostruzione di qualche genere che ostacoli la fuoriuscita di. Una predisposizione metabolica, questo è un termine un po' più complesso, che dice le urine e il sangue di queste persone hanno una tendenza a formare calcoli, ma si possono ben studiare. L'iperuricemia, di cui certamente avete tanto parlato anche in precedenza nelle vostre belle puntate. Bevono poco. Ecco, solitamente gli uomini fanno molto più fatica. È paradossale perché in realtà chi fa tanto sport tende a bere molto di più. Questo è una buona regola, soprattutto quelli che fanno sport non solo agonistico, ma in linea di mare anche quelli che lo fanno a livello amatoriale. Il problema è che cosa bere, e poi vedremo anche forse il perché del che cosa bere abbia la sua importanza. Un altro elemento importante che a mio avviso non può essere trascurato è il fatto che chi abbia avuto dei calcoli in precedenza non debba mai trascurare di farsi una buona valutazione successivamente, quello che in termini medici si chiama follow up, cioè vado a prevenire la ricomparsa da un lato, quindi elementi dietetici, elementi di idratazione corretta, e vado a valutare se dei piccoli calcoli si siano eventualmente riformati, perché da piccolo calcolo si può arrivare poi a calcolo più importante, a calcolo ostruente. Allora, noi abbiamo detto che per evitare calcoli vogliamo contare sulla prevenzione. Sì. Abbiamo in linea con noi un grande esperto, il dottor Luca Villa, che è urologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano. Buongiorno, dottor Villa. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi. Lei vuole aggiungere un elemento al nostro identikit, quello che è già tratteggiato da Andrea Salogna? Ma è difficile aggiungere qualche cosa di quello già di cui è già stato ampiamente detto dal professor. Quindi l'abbiamo promosso. Sì, assolutamente, a pieni voti. Luca. Negli ultimi anni, assolutamente, quello che è da notare, da sottolineare, è il fatto che i cambiamenti dell'alimentazione hanno portato a un netto aumento dell'incidenza di questa malattia. Soprattutto nei paesi occidentali, l'aumento dei cibi grassi, diete iperproteiche, bevande gasate, zuccherate, portano alla produzione e all'accumulo di questi oligoelementi, di questi sali all'interno delle urine e favoriscono pertanto la formazione dei calcoli. Basti pensare che in una lattina di Coca-Cola, secondo voi quante dollette di zucchero ci sono contenute in una lattina? Lo mettiamo come domandone. E prima che lei vada via daremo naturalmente la risposta, quindi 800240024 l'avevamo già dato in una nostra puntata, ti ricordi? Sì, Deborah, sì. Avevamo proprio fatto il conto, ma dottor Villa, lei stia lì perché poi deve dire ai nostri ascoltatori se la risposta è corretta, ma intanto soprattutto vogliamo che lei ci dia qualche indicazione per prevenire, no? I calcoli, è possibile con alcune attenzioni. La prima direi idratazione, no? Esatto, la prima cosa è l'idratazione. Si dice al paziente di bere almeno 2 litri di acqua, questo per arrivare ad una produzione di urine che sia di almeno 2 litri. Questo perché per me la produzione di un volume adeguato riduce il rischio che questi oligoelementi precipitino all'interno delle urine. Quindi i fattori di rischio sono due: una scarsa diluizione di questi elementi, quindi un ridotto volume complessivo di urine, e un eccesso di questi elementi nelle urine. Certo. Questo eccesso è causato e strettamente legato a delle scorrette abitudini alimentari, per cui è molto importante, una volta identificato il nostro paziente a rischio, fare uno screening di questo paziente e vedere quali sono i fattori predisponenti legati all'alimentazione. Per arrivare ad avere queste informazioni precise, l'esame fondamentale è quello delle urine, un'analisi delle 24 ore, per analizzare le concentrazioni di questi elementi. Più importanti sono il calcio, lo stalato, l'acido urico e l'urea all'interno delle urine. Questo permette di fare un identikit e di capire quali sono gli eccessi che il paziente ha abitualmente nella sua dieta e pertanto di arrivare a dare delle informazioni mirate su ciò che va ridotto nell'alimentazione, che può essere i formaggi, i latte, i latticini, tutto ciò che contiene elevati livelli di ossalato, per cui cioccolato, tè, spinaci, frutta secca. Un'altra causa di un elevato livello di calcio, che è il componente principale dei calcoli, può essere un eccessivo apporto di proteine e di sali con la dieta, pertanto. Ma scusi, scusi dottor Villa, lei mi dice calcio, abbiamo detto che bisogna bere tanta acqua, no? Almeno sì. Ecco, allora ci sono delle quindi dobbiamo anche fare un po' attenzione all'acqua che scegliamo, perché ci sono acque ricche di questo minerale, tanto che vengono suggerite alle donne, ad esempio, no? Soprattutto nel periodo della menopausa, per arrivare a coprire il fabbisogno giornaliero di questo minerale, in alternativa al latte e ai latticini per le persone che non assumono questi alimenti. E quindi chi ha una sorta di predisposizione, chi ha già avuto dei calcoli, possiamo passare questa informazione? Scegliete acque che non abbiano un livello di calcio elevato, quindi orientatevi verso. Tra l'altro, a proposito di acqua, un ascoltatore ci scrive: ma è vero che l'acqua del rubinetto porta più facilmente i calcoli? Questa è una delle domande che stanno arrivando. Dipende molto dalla qualità dell'acqua del rubinetto. Per esempio, Milano è nota per essere una città con una qualità dell'acqua molto buona, per cui direi che non è vero. Però l'Italia è lunga e bisogna, non possiamo... Esatto, non dare una raccomandazione... Senta, dottor Villa, ma lei ci ha tolto un sacco di cose... ce ne vuole aggiungere qualcuna? Perché noi amiamo anche conoscere alcuni alimenti che ci danno una mano a stare bene, a prevenire, certo. Perché sennò qua i nostri ascoltatori ci bacchettano e certo. Ci dicono: ma ci togliete tutto. Ma Luca è molto rigoroso, molto secco, per cui è difficile che ti aggiunga. Magari ti darà dei suggerimenti. Vorrei sottoporre al dottor Villa l'indicazione che arriva da un ascoltatore che ci suggerisce l'acqua e limone al mattino. C'era una ricerca molto interessante sui limoni di Sicilia, la cura la terapia, se vogliamo dire, del limone, così è stata ribattezzata, che sembra avere un ruolo preventivo nella formazione dei calcoli renali. Sì, in generale tutti gli agrumi, per cui arance, limoni, sono cibi ricchi di citrato. Il citrato è una sostanza che inibisce la cristallizzazione di questi oligoelementi, pertanto livelli adeguati di citrato all'interno delle urine prevengono la formazione dei calcoli, per cui assolutamente è una buona abitudine. Noi consigliamo l'assunzione di, per esempio, una spremuta di arancia al giorno. Leva il calcolo di torno, questo potrebbe essere un buon motto. E se non è arancia, se non limone, ci sono comunque, immagino, che e non solo di Sicilia, se posso dire, perché l'Italia è proprio lunga, certo. E di limoni se ne producono tanti. E se non sono gli agrumi, è sufficiente arricchire la nostra alimentazione di vitamina C, che si trova. Sai, anche Nico, i ravanelli sono ricchi. Anche i ravanelli. Sai che peraltro, faccio una piccola digressione rispetto al contenuto dei calcoli, la vitamina C, l'abbiamo già detto altre volte, è molto utile anche per ridurre o prevenire il rischio di infezione delle vie urinarie ricorrenti, le famose cistiti delle signore o le infezioni delle vie urinarie anche dei maschietti, che alla base hanno una capacità di predisporre alla formazione di calcoli, soprattutto a livello vescicale. Quindi, ecco, vedi che ad esempio questo non me l'avevi detto nell'identikit del nostro uomo. No, non te l'avevo ancora detto. E noi vi diremo ancora altro, ma soprattutto prima di noi, Deborah con i mercati. Pronta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. L'ho appena saputo, che cos'hai? Calcoli renali. Vede, di solito noi cerchiamo di frantumarli con delle onde sonore, ma i suoi purtroppo sono troppo vicini alla vescica. Quindi ora o aspettiamo che escano da soli o risaliamo lungo l'uretra e poi... Che cosa? No. Qui non risalirà mai niente, chiaro? Risalire non si può. E poi che cos'è l'uretra? Oh mio Dio. Ce l'hai fatta, lo sai. Vuole vederli? Come sono piccoli. Piccoli, ma possono essere molto dolorosi. Bentornati, stiamo parlando di calcoli. Perché abbiamo deciso di occuparci di questo problema proprio in questa puntata? Ce lo racconta Andrea Salogna, l'abbiamo già anticipato, è un po' la stagione. È molto la stagione. C'è anche una stagionalità dei disturbi, sì, che dettano un po' l'attualità. perché andando dalla primavera, primavera inoltrata e per tutta l'estate, si ha la tendenza sostanzialmente a sudare di più. Si vorrebbe anche bere, o si dovrebbe anche bere di più, questo non sempre succede. Dobbiamo ricordarci che, come abbiamo detto prima, non esiste una stagionalità della vita rispetto alla quale compaiano o meno calcoli, ma è certo vero che nei soggetti anziani o quelli che non sono più giovanissimi si perde un po' il senso della sete o della necessità di bere, e quindi d'estate, quando la diaforesi, questo è il termine scientifico per dire sudorazione, tende ad aumentare, purtroppo il rischio di un'iperconcentrazione delle urine aumenta. Come diceva prima il dottor Villa, tanto più aumenta la concentrazione di quelli che sono oligoelementi, a partire dagli ossalati, il calcio, come ben diceva, in un volume ridotto di acqua, purtroppo il rischio che questi vadano a precipitare dando luogo alle concrezioni litiasiche, cioè dei calcoli, aumenta in modo esponenziale. Allora, io volevo però chiedere, prima di dare delle buone notizie, perché nel caso poi i calcoli siano da operare, come sì, si dice così, quindi frantumare, sì, togliere, ci sono delle ottime notizie, fra poco ce le racconterà il dottor Villa, una chirurgia endoscopica mini invasiva che libera dai calcoli, sì, con un recupero post operatorio molto rapido. Volevo chiederle, arriva il dolore e di solito arriva nei momenti sempre sbagliati, sì, no? Ecco, non che ce ne siano alcuni più opportuni, ma in quelle condizioni in cui diventa difficile, che cosa si fa quando ti arriva questo forte dolore? Ci sono persone che dicono bisogna mettersi nella vasca da bagno perché immergersi nell'acqua può in qualche modo, no, attutire un po' questi spasmi dolorosi. Questi. Dottor Villa, che cosa? Un SOS o male? Forse un calcolo, perché non è che siamo in grado di diagnosticarlo. Esatto. Questa fitta terribile, posso pensare... Mi dia qualche indizio per capire che è proprio quel sassolino che ha deciso di andare a finire dove non dovrebbe, a provocarmi quel dolore, e cosa posso fare per avere meno male. Allora, il dolore legato a un calcolo che ostruisce le vie urinarie è un dolore che il paziente non dimenticherà più nel resto della sua vita, perché è un dolore molto intenso, crampiforme. Il paziente cerca di trovare una posizione in cui questa sintomatologia sia un pochettino alleviata, ma il paziente non riesce a trovarla, per cui inizia a agitarsi, sente molto male, è inevitabile che il paziente, se ha vicino qualcuno, chieda di essere accompagnato al pronto soccorso più vicino possibile, perché è una sintomatologia assolutamente intollerabile. È chiaro che possono esserci diversi gradi, alcuni pazienti, soprattutto quelli che hanno già avuto episodi simili, iniziano a riconoscere il dolore di tipo colico, per cui assumendo un antidolorifico, i cosiddetti antinfiammatori non steroidei, può trovare giovamento. Ecco, no, per fare proprio, per tamponare un po' la situazione, quindi un antidolorifico, ci sono altri consigli da dare? Uno potrebbe erroneamente pensare che bere tanto, che è il consiglio che si dà a tutti i pazienti che hanno calcoli, possa essere un accorgimento adeguato. In realtà nella fase acuta è sconsigliabile iniziare a bere, perché questo non farebbe altro che aumentare la pressione dell'urina sul calcolo. Ecco, questa è un'altra buona. Nella fase quindi... acuta, no, antidolorifico, smettere di introdurre liquidi. E anche di mangiare, perché come sintomatologia riflessa è frequente che compaia nausea e vomito. Allora, dottore... Il digiuno antidolorifico e temporeggiare in attesa di vedere se i sintomi migliorano, altrimenti recarsi al pronto soccorso più vicino possibile. La buona notizia è che nel caso i calcoli fossero da sminuzzare, eliminare, adesso la chirurgia è molto più gentile. E questa è stata una vera svolta, dottor Villa. Questa è stata una svolta molto importante che ha permesso di migliorare significativamente i risultati dei trattamenti offerti ai pazienti che soffrono di questa patologia. Prima si ricorreva principalmente a un bombardamento esterno che consentiva spesso di frantumare il calcolo, ma non garantiva un adeguato successo in termini di espulsione dei frammenti generati da questo bombardamento esterno. Ora, con lo sviluppo di queste nuove tecniche endoscopiche, è possibile risalire all'interno delle vie naturali senza violare l'integrità anatomica. Ovviamente questo va fatto in anestesia, per cui è necessario un ricovero ospedaliero, ma questa tecnica permette al tempo stesso e di frantumare i calcoli e di asportarli, e quindi di rendere il paziente stone free. E quindi di non avere più problemi con questi sassolini, Deborah. Esatto. abbiamo, come si dice, tagliamo la testa al toro. E al calcolo anche. Sì. Al calcolo. Dottor Villa, abbiamo Patrizia da Genova che si è candidata per rispondere sul domandone di oggi. E la Coca-Cola. Il numero di zollette contenuto in una lattina di Coca-Cola. Sentiamo. Questa era la domanda del dottor Villa. In una lattina. Patrizia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Premetto che detesto le bevande gassate e dolci, quindi e questo va a suo vantaggio. Pronto? Non capisco. Il dottor Villa dice questo va a suo vantaggio. Sì, appunto. Va bene, ma per me in una lattina di zucchero dovrebbero esserci una lattina di Coca-Cola dovrebbero esserci dalle 7 alle 10 zollette. Esatto, risposta corretta. Risposta corretta, ha vedi vinto, l'abbiamo ha vinto. Li abbiamo vedi? Ha vinto il libricino. Ha vinto un libricino. O di cuore o di denari, dalla regia prenderanno i suoi dati e voilà, noi arriveremo a casa sua. Grazie Patrizia, grazie al dottor Villa per essere stato con noi. A voi, grazie ancora. Buona per giornata. L'invito. Buona giornata. Noi parliamo di un altro tema, parliamo di doping. Si sa che bisogna sempre andare cauti, visto l'importanza di un tema come questo, ma mai come in questo periodo il tema torna prepotentemente alla ribalta. C'è molto stata la morte di un giovane, di un ragazzo trentenne che faceva bodybuilding. E poi le dichiarazioni di Danilo Di Luca, che nella sua biografia, uscita in questi giorni, Bestie da Vittoria, parla del suo rapporto con il doping. Noi usciamo assolutamente dallo sport professionistico, di cui si occupano altre trasmissioni, ci rivolgiamo ad un pubblico molto più ampio. Perché lo facciamo? Perché l'uso di sostanze medicinali naturali sintetiche finalizzate al miglioramento delle prestazioni fisiche in ambito sportivo è molto diffuso anche tra chi pratica sport a livello amatoriale, sì, no? Molto. E insomma, possiamo dire che è un problema sociale, interessa anche i ragazzi giovani, interessa le persone che vanno in palestra, che vogliono vedere aumentare la loro massa muscolare, ma anche avere più forza, insomma. Okay. Sì, la prima cosa, Nicoletta, che secondo me è importante fare è togliere un po' di confusione e liberare un po' questa Milano dalla nebbia, come si suorebbe dire. Nel senso che esistono due grandi categorie. Uno è rappresentata dalle sostanze dopanti, di cui parleremo fra poco, e un'altra dagli integratori, quelli che nella più parte dei casi chi fa sport con regolarità è abituato a utilizzare. Tra queste ricordiamo banalmente le proteine, gli aminoacidi ramificati, le sostanze elettroliticamente di rinforzo. Banalmente ci sono tantissime sostanze, tantissime soluzioni che contengono, diciamo, tra gli altri, potassio piuttosto che magnesio, piuttosto che proteine, aminoacidi ramificati, potassio, magnesio, commistioni degli stessi, non sono doping, ma non è escluso possano essere di danno se utilizzati in un contesto scorretto, in dosi scorrette o fossero di qualità scorretta. Torniamo a quanto prima ci diceva il dottor Villa. È sempre importante il volume in cui andiamo a distribuire le cose. Banalmente il volume idrico, l'acqua contenuta nel corpo rispetto agli elementi che andiamo a introdurre. Perché chi fa troppo uso di proteine ha sempre la necessità di controllare molto bene la funzionalità renale. Perché, ce l'ha detto prima Luca Villa, perché la probabilità che quelle proteine precipitino in eccesso, qualora lo fossero, precipitano all'interno delle vie escretrici dando calcoli, e questo sarebbe il minore dei problemi. Qualora mai invece l'eccesso fosse realmente tale o in persone predisposte, si arriverebbe ad avere un danno della funzionalità renale, il cui specchietto per le allodole è rappresentato da un incremento dei valori della creatinina, di quel parametro del sangue che ci dice il rene funziona o il rene non funziona. Quindi attenzione a facciamo il l'eccesso di sostanze che fungano da integratore della dieta a base di base di proteine, aminoacidi ramificati, ce ne sono tantissime. Il problema reale è la quantità corretta in un volume corretto, e secondo aspetto importantissimo è la qualità di ciò che ingeriamo. Normalmente infatti siamo soliti acquistare in strutture che hanno tutti i crismi per poter essere considerati corretti, ma è molto frequente essere invitati via web, via internet, ad acquisto di sostanze che buone, tra virgolette, non sono. Sappiamo. E che possono avere, lì sì, delle sostanze dopanti misconosciute, non dichiarate, che rientrano nel secondo gruppo di cui parleremo subito dopo le informazioni sul traffico, e ci raggiungerà anche il Signore degli Anelli, di cui, per cui io e Deborah abbiamo una grande passione, una passione un grande affetto, che non è più segreta, è dichiarata, molto proprio dichiaratissima. E vabbè, ma dai, con Yuri, no, ti ringrazio, insomma, dai, non c'è paragone. Cuore e denari. Sì, accendo anche il microfono, vero? Sarebbe utile in radio, sì, oggettivamente. Eccoci qua, siamo tornati. Eccoci qua. Allora, ultima parte del programma. Dai calcoli siamo passati a parlare di doping. Perché? Perché sta diventando un problema sociale. Abbiamo ripreso la notizia del giovane trentenne che è morto, sì, per no, un culturista, sì, facendo uso di sostanze. Ecco, che... quella notizia, Nicoletta, secondo me è utile ed è ambivalentemente utile. Perché? Perché lì si è quasi misconosciuto il ruolo del doping per ascrivere a quella sostanza il fatto di essere avariato. Il problema non è tanto che quel ragazzo ha assunto una sostanza avariata. Il problema è che ha assunto doping, cioè ha fatto uso di sostanze di cui oggi, banalmente, stamattina, guardando il mio account di mail di Yahoo, tanto per non fare nomi, mi sono arrivati 5 spam di inviti ad acquistare sostanze che terminano con ONE, generalmente forme di anabolizzanti non assolutamente steroidei, ma anabolizzanti steroidei ma non leciti. Queste sostanze. Quindi noi abbiamo preso la notizia, di cui poi non abbiamo naturalmente i dettagli. Perché su non questo vogliamo, ragazzo, eccetera. Però speculare era... sulla tragedia. Ecco. Ma il concetto reale è che purtroppo non deve essere confuso il fatto che quel ragazzo sia morto perché ha fatto uso di una sostanza avariata. Quel ragazzo è morto perché ha fatto uso di un anabolizzante, quindi di una sostanza dopante non lecita, in un contesto in cui quella sostanza era anche avariata. Il problema reale è che ovviamente noi ci rifacciamo a quanto le testate giornalistiche, le informazioni sul web hanno potuto dirci, ma in linea di massima la probabilità che in un contesto purtroppo sportivo, amatoriale e non per forza di cose agonistico ad alti livelli si faccia uso di quelle sostanze che non sono lecite è enorme, è veramente enorme, e lo dico da persona che con un certo qual grado di amatorialità fa attività sportiva quantomeno. Sì, vedi la detto così perché sa che noi in linea abbiamo deve un campione fare belle vero figure, dici? E intanto lo salutiamo. Mi sono appena ripreso l'attacco di gelosia. Yuri, ciao. Oh, ciao. Vedi che hai iniziato a mettere le mani avanti, Andrea Salogna, perché ecco, sapeva che c'eri tu. Beh, non c'è paragone. Lo so, d'altronde tu il portabandiere all'Olimpiade non l'hai mai fatto. No. Lui sì. No. D'altronde... D'altronde, è che è stata una delle cose più, guarda, una delle emozioni più belle della davvero, mia carriera sportiva. Sì. Infatti, ci tiene molto anche Federica Pellegrini, esatto, che sarà la prossima a cimentarsi. Eccoci qua, andiamo. Allora, Yuri, volevamo avere da te un... Intanto grazie, buongiorno a tutti e a tutti i vostri numerosi radioascoltatori, è sempre un piacere parlare con voi. Senti, anche per noi. Senti, tu ti sei recentemente espresso proprio sul tema, invitando a una tolleranza zero per chi si dopa, ma noi vogliamo che tu dia un messaggio soprattutto agli sportivi amatoriali che magari non sono soddisfatti delle prestazioni, che non migliorano, della massa muscolare che non cresce abbastanza e quindi pensano di trovare delle scorciatoie o magari trovare delle sostanze, un modo che dando loro una nuova soddisfazione li stimoli a continuare ad andare sempre meglio. Yuri, lasciamo la parola a te. No, ma è un problema davvero annoso, soprattutto negli sport cosiddetti amatoriali. Io quando un po' di tempo vado in bici, mi piace molto lo sport della bicicletta, del ciclismo, ho fatto anche, farò, spero di avere il tempo, anche delle gran fondo amatoriali e vedo delle cose indicibili e mi dispiace molto perché si perde proprio il gusto dello sport amatoriale, gente che cerca di modificare le proprie performance con sostanze dopanti, e questo secondo me è un grosso problema da un punto di vista etico e soprattutto salutare, perché da un punto di vista etico è frustrante vedere che persone anche di una certa età, evidentemente che non stanno bene con se stessi, cercano di così trovare delle soddisfazioni, degli appagamenti, cercando di magari arrivare invece di 120° nella gara arrivare 100 ventesimo e battendo l'amico con il quale fanno le uscite. Vuol dire che c'è un problema, penso, anche un pochino più, a finire, di star bene con se stessi. E quindi è un problema un po' più di cultura, anche della necessità quasi di un risultato per star bene appunto con se stessi, e questo è un problema personale. L'altro aspetto è più salutistico, cioè è evidente, naturale, che qui le cose, cioè, fanno male, soprattutto quando alcune persone cercano delle sostanze su internet, non hanno quindi un controllo e una capacità di valutazione di quello che ingeriscono. Ci sono, è così, dei casi che hanno portato a estreme conseguenze come la morte o altre conseguenze molto gravi. È un problema molto difficile da risolvere. Sì, abbiamo detto che è un problema sociale. Tu sicuramente ci dai una mano, perché arrivi anche ai ragazzi. Ci sono delle indagini che sono state fatte in America che hanno sottolineato che le principali fonti di informazione sul doping tra i giovani maschi tra i 13 e i 18 anni è proprio internet. Di queste, naturalmente, delle loro scelte non ne parlano con i genitori, e sono, il rischio aumenta in modo considerevole nella popolazione giovane. Andrea, tra le sostanze più frequentemente utilizzate per aumentare le performance ci sono gli steroidi anabolizzanti, sì, che sono strettamente collegati agli ormoni sessuali maschili, no? Sì. Ecco. Ed è importante quanto il signor Checchi ha appena detto, perché non è solo una questione di, se vogliamo, socialità piuttosto che di rigore morale il fatto di assumere una molecola di questo genere per un lasso di tempo che può essere più o meno prolungato. Il problema reale è l'impatto sulla salute del corpo, che è devastante. Se volete solamente elencare tre elementi, di cui uno molto grave e due molto meno, sì, gravi ma importanti. Gli steroidi anabolizzanti sono stati associati a tumore del fegato. Gli steroidi anabolizzanti sono stati associati a infertilità maschile. Gli steroidi anabolizzanti sono stati associati a calo complessivo dei valori di testosterone. Quante volte abbiamo parlato di quest'ultimo argomento, di quanto importante sia per la salute tutta del maschio, dall'osso al cervello, i muscoli, il sonno, il desiderio sessuale, l'erezione, lo stato di salute delle coronarie, del cuore, è tutto importante. Ora, un danno che è talvolta irreparabile, se prolungatamente assunti nel tempo, può essere in realtà in parte reparabile se è sostanzialmente assunto in uno specifico momento e mai più assunto. Ma banalmente non avrò spermatozoi nel liquido seminale dopo l'assunzione di questi, e ci vorranno mesi e mesi, talvolta non si recupera neppure più dall'assunzione di un anabolizzante. Allora, Yuri, insieme a Debora potremmo lanciare questa nuova coppia, Yuri Checchi e Andrea Salogna, per fare delle informazioni soprattutto tra i giovani, gli sportivi amatoriali, per convincerli alla bellezza di uno sport pulito. Yuri. Mi sembra un'idea meravigliosa. Ma guarda, è proprio, avete secondo me centrato un po' il tema, che è quello dell'informazione. Le cose che ha appena detto Andrea, che dite voi, molti ragazzi, credetemi, secondo me non le sanno e pensano, ma sì, se l'hanno fatto gli altri, poi... Che vuoi che mi faccia? C'è un problema proprio di informazione, e con internet, che è delle grandissime opportunità ma anche delle grandi criticità, questo è molto difficile. Io non so se avete visto, ma qualche giorno fa sono morto per internet, non so. Sì. Detto, muore Yuri Checchi, mi ha creato problemi. Beh, comunque io non l'ho visto Yuri, l'hai visto tu, ma comunque sì. Yuri, questo porta molto bene, quindi esatto, ecco, guarda, questo porta buono, visto che non mi possono allungare l'altezza, se mi allungano la vita sono più contento, quindi... e noi ti aspettiamo qua, grazie a Yuri Checchi, un bacio grande. Andrea, due baci anche a te. Grazie anche a voi, buon weekend. E noi a tutti gli ascoltatori, ci ritroviamo qua puntuali lunedì mattina alle 10.30, buon fine fra un mese circa settimana a tutti. Continua a scrivere per noi, però, mi raccomando. Grazie.